voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Lavazza, il caffè più lo mandi giù, più ti tira su. Buona giornata, benvenuti a un nuovo appuntamento con Voci d'Impresa. Oggi parliamo con Giuseppe Lavazza, vicepresidente di Luigi Lavazza S.p.A., l'azienda italiana produttrice di caffè tostato che prende il nome dal suo fondatore. Innanzitutto chiediamo a Giuseppe Lavazza qual è il suo rapporto con il caffè. Beh, un rapporto assolutamente piacevole. Diciamo che io ho iniziato a bere il caffè praticamente con l'inizio degli studi universitari. Prima ho avuto occasione di assaggiarlo, ma in ben rara occasione, di solito magari a colazione con un goccino di latte, mai puro. Poi, iniziando a studiare, all'università, diciamo che la moca era proprio una compagna immancabile, specie quando si doveva preparare degli esami alla sera, farsi accompagnare dal caffè preparato con la moca, insomma era proprio una consuetudine. Quindi funziona, diciamo, come bevanda anche per accompagnare, diciamo, le attività, ecco, sveglia. Ma il mio rapporto col caffè è molto legato a quello che faccio durante il corso della giornata. Beh, sicuramente, diciamo, il risveglio non può avvenire se non dopo aver bevuto una tazzina di caffè. Inizialmente, qualche anno fa, la preparavo con la moca, perché mi divertivo anche molto a prepararmelo in casa al mattino in cucina, e oggi devo dire che l'ho sostituito poi con le cialde, che sono molto comode e devo dire anche molto, molto buone. E poi durante il corso della giornata il caffè contrassegnava sempre forse un attimino di pausa, di stacco tra le varie cose che si facevano. All'università si studiava, quindi quando si riusciva poi a uscire ogni tanto dalla facoltà si andava sicuramente al bar a prendere qualche cosa, e poi con la vita lavorativa diventava veramente un attimo di sospensione, ma brevissimo, tra una cosa da fare e l'altra. Ecco, lei e il caffè ormai siete inseparabili. Oh, Lavazza, più lo mandi giù e più ti tira su. Quella della Lavazza è una storia che inizia generazioni fa. Il suo fondatore Luigi Lavazza inizia la sua attività il 24 marzo 1894, anche se la nascita della Lavazza si fa comunemente risalire al 1895. Ci racconta questa storia? Sicuramente sono legati al luogo fisico in cui tutto nacque, che era questa piccolissima drogheria di via San Tommaso 10 nel cuore di Torino. Direi forse prima ancora di questo, però il coraggio, anche un po' la caparbietà del mio bisnonno Luigi, che proveniva da Murisengo, quindi lui in realtà non era nato a Torino e faceva un altro mestiere prima di mettersi a fare il commerciante a tostare il caffè. Lui faceva il contadino, era un uomo di campagna, costretto ad andare in città a causa delle avversità climatiche che si abbatterono proprio nel Monferrato, nell'area in cui lui viveva, e che lo costrinsero in qualche maniera a cercare fortuna altrove. E tra le cose, diciamo, che ricordiamo con più piacere è come è partito. In realtà lui non disponeva di capitali, naturalmente non aveva nulla, e riuscì a farsi imprestare 50 lire dalla società cooperativa di mutuo soccorso firmando una cambiale che noi ancora abbiamo, che conserviamo qui in sede nella nostra sala consiglio, e che rappresenta un po', voglio dire, il punto di partenza di tutto. Quindi fu un imprenditore coraggioso, perché in realtà, pur non avendo niente, fece una scommessa su se stesso e su quello che poteva fare. E soprattutto la cambiale fu onorata, quindi fino in fondo lui ripagò il suo debito e piano piano iniziò a dedicarsi all'attività che in qualche maniera poi lo porterà a fare fortuna. Nello stesso tempo era un uomo che riconosceva l'importanza della preparazione anche tecnica, professionale. Lui non aveva studiato, e in quegli anni, siamo praticamente alla fine dell'Ottocento, si era anche iscritto a una scuola serale per imparare un po' i primi rudimenti tecnici del commercio, e quindi avviarsi piano piano e lungo la strada con un bagaglio e una preparazione un pochettino più solide. Dopodiché fece anche il suo apprendistato come garzone all'interno di una drogheria, di una bottega, e da lì, diciamo, oltre alla teoria, ebbe la possibilità anche di imparare la pratica e quindi poi di metterla a buon profitto e di lanciarsi poi da solo in questa attività, che fece subito fortuna. Lui aprì questa sua piccola drogheria, appunto, in via San Tommaso 10 a Torino, di cui conserviamo ancora qualche immagine, qualche fotografia. Era un negozietto di circa 140 metri quadri con il bancone, esattamente così come ancora se ne possono vedere in qualche parte d'Italia. Ecco, i caffè a Torino sono anche un momento essenziale, importante della vita sociale. Beh sì, perché non dimentichiamoci che comunque Torino era stata la prima capitale, era stata comunque, era ancora la sede di una corte importante. Intorno, diciamo, al centro, quindi vicino appunto a via San Tommaso, c'era il Parlamento, c'erano tanti caffè storici, c'era Palazzo Madama, quindi c'erano le sedi di quelle che erano state il primo Senato del Regno d'Italia, il primo Parlamento del Regno d'Italia. Quindi Torino nell'Ottocento era sicuramente importante sia dal punto di vista politico che filosofico e non soltanto, diciamo, industriale. Quindi i caffè prosperavano, e prosperavano naturalmente anche le attività che in qualche maniera si legavano all'indotto di questi importanti locali, in cui appunto non soltanto si andava a prendere un caffè, ma si discuteva di politica, di finanza, di futuro. Quindi certamente Torino è stato molto importante da questo punto di vista e ha favorito anche la crescita di un'azienda come la Lavazza e come tante altre. A Torino ci sono tante aziende che si occupano ancora oggi di caffè. Sì, però la vostra, diciamo, ha avuto il primo vantaggio di fare una miscelazione particolare, quindi avere, come dire, una ricetta, un vantaggio competitivo fin dall'inizio. Ma diciamo che questo è un po' una caratteristica di tutte le torrefazioni italiane. Vede, l'Italia è diventata famosa nel mondo per il caffè, continua ad esserlo tuttora, molto imitata, devo dire, come in tante altre cose. Proprio perché gli italiani hanno sempre voluto mettere anche in questa particolare attività un tocco della loro creatività e della loro inventiva, quindi nessuno si limitava sostanzialmente a comprare del semplice caffè e tostarlo e venderlo, ma tutti in qualche maniera volevano preparare delle miscele e quindi in qualche modo vendere qualche cosa di esclusivo, anche di segreto se vogliamo, che stava alla base della qualità e del successo. Quindi la tecnica di miscelazione nasce proprio in Italia ed è una caratteristica assolutamente diffusa. Diciamo che noi abbiamo forse avuto in qualche maniera l'idea, prima di altri, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, di pensare di poter vendere il caffè confezionato e reso riconoscibile da un marchio, perché vede, fino praticamente a quel momento il caffè in Italia si comprava sfuso. Quindi si andava nelle drogherie, si comprava il caffè che era di solito esposto in bella vista, esattamente come la frutta e la verdura, e dopodiché il droghiere glielo pesava e glielo metteva in un sacchetto, lei se lo portava a casa e veniva poi macinato direttamente in casa con dei macinini abbastanza rudimentali, se vogliamo, però efficaci, e poi si preparava il caffè. Certo, tra l'altro uno dei ricordi che si hanno è che durante la guerra mancava, scarseggiava il caffè, addirittura si faceva con la cicoria, si faceva con altri, sì, con altri elementi. L'Italia a un certo punto varò, diciamo, questo regime autarchico, no? Per cui il regime fascista impediva sostanzialmente di importare in Italia prodotti che provenivano dall'estero, il caffè era uno di questi, quindi bisognava in qualche maniera sostituirlo con qualcosa di locale, e la cosa, diciamo, più vicina, anche se non del tutto simile, era offerta proprio dalla cicoria, che poi si impose anche durante la guerra per delle ragioni evidenti di scarsità di beni di primissima necessità. Ma non appena, diciamo, finì il secondo conflitto bellico, la popolazione ritornò alle antiche abitudini, il caffè sostanzialmente si ridiffuse in modo molto molto rapido, anzi era veramente un segno del ritorno alla normalità. E proprio dopo la guerra, diciamo negli anni 50, si iniziarono anche a diffondere in maniera molto molto ampia le macchine da caffè espresso, che ai tempi erano anche poi firmati da grandi designer e da grandi architetti dello stile italiano. Quindi negli anni 50, basta insomma ricordare magari qualche pellicola del tempo, se le scene erano ambientate all'interno dei nostri caffè, la macchina espresso troneggiava come forse il complemento d'arredo più importante di tutto il locale. Certo. E l'intorno si svolgeva la vita di tutti i giorni. Via via che passavano le generazioni c'è stata maggiore attenzione alla formazione, un'espansione verso l'estero, poi il salone del gusto, la distribuzione organizzata e via via fino alla responsabilità sociale impresa, il premio che è stato dato dal Sole 24 Ore Cultura Impresa nel 2005. C'è stato, come dire, pian pianino un evolversi dell'azienda. Ma senza dubbio, diciamo, le varie generazioni si sono passate il testimone con grande continuità e soprattutto in totale assenza di conflitto, che è già stata una cosa secondo me molto importante. Dopodiché chi è arrivato ha fatto sempre tesoro dell'esperienza passata senza mai rinnegarla, anzi cercando di costruire, di capitalizzare ancora di più tutte le cose buone che erano state fatte in passato, però con un occhio, diciamo, molto attento anche all'evoluzione e alla contemporaneità, no? Per cui alla fine ci siamo un po' resi conto che pur facendo, diciamo, cose diverse non ci siamo mai fermati e soprattutto abbiamo costruito un arco di storia molto omogeneo e sempre molto, direi, fondato sugli stessi principi, no? Sugli stessi valori. Quindi anche se oggi per esempio si parla molto di responsabilità sociale dell'impresa, di apertura delle imprese verso il sociale, noi ci rendiamo conto che questi valori erano già in qualche maniera presenti nella cultura della nostra azienda, seppur magari in forme diverse e meno oggetto di comunicazione con il pubblico, anche in passato. Quindi c'è sempre stato un grande rispetto per l'etica del lavoro, soprattutto per l'etica degli affari, per la serietà, per il modo in cui ci si deve sempre comportare sia nei confronti dei propri collaboratori che nei confronti dei propri fornitori, o nei confronti dei propri clienti, no? Con cui si stipula tutti i giorni un patto dove l'oggetto è dato dal prodotto che non casualmente porta anche il nome degli stessi imprenditori, no? Per cui c'è una forma di coinvolgimento, di responsabilità forse ancora più grande. Però devo dire che forse il segreto, se così si può chiamare un po', della nostra crescita, del nostro sviluppo, è stato soprattutto dato dal fatto che i soci imprenditori hanno sempre condiviso tutte le scelte fatte, quelle difficili e magari anche quelle più facili, con grande armonia e soprattutto grande amicizia e senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell'azienda e di tutto quello che questa rappresentava. Si chiude qui la prima parte di Voci di Impresa, ma rimanete con noi perché ci ritroveremo dopo una piccola pausa con l'intervista a Giuseppe Lavazza. Tra poco. Voci di Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Bentornati a Voci di Impresa, continuiamo a parlare con Giuseppe Lavazza e iniziamo dal suo rapporto che ha tra la vita e il lavoro, la relazione, il bilanciamento tra queste due dimensioni importanti della vita. Per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che l'elemento più importante è la solidità del proprio nucleo familiare, quindi il fatto di poter essere sostenuti molto durante il corso, diciamo, della propria vita lavorativa da una situazione familiare il più possibile tranquilla e naturalmente anche più possibile in grado di coprire tutte quelle aree per cui uno non riesce a trovare magari il tempo sufficiente da dedicarci. Questo direi nell'ottica di una piena compenetrazione dei ruoli. Per esempio, per quanto riguarda il mio nucleo familiare, io ho tre figli, tutti ancora abbastanza piccolini, ma ho anche la fortuna, per esempio, di avere una moglie che si occupa a tempo pieno, direi, di loro con grande amore e affetto, consentendomi tutto sommato di dedicare una buona parte del mio tempo al lavoro, nella convinzione che, soprattutto nella sicurezza, che tutto si svolga nella maniera migliore e soprattutto con grande cura ed attenzione. e questo consente tutto sommato, ecco, di dedicare molte energie, molto tempo al lavoro, però poi di ritrovare nei momenti in cui si ha un po' più di libertà, ecco, veramente tutto quello che si desidera, quindi veramente una bella famiglia, dei figli assolutamente carini, simpatici, pieni di voglia di stare magari anche con te, pur non avendo la possibilità di vederti troppo. Certo, e per quanto riguarda gli hobby, altre cose? Quelli si devono sacrificare un po', quindi non c'è spazio per tutto. Devo dire che gli hobby sono sicuramente le attività a cui si rinuncia più facilmente, guardi, alla fine, perché il lavoro, diciamo, è anche un dovere, ma è anche un piacere, poi in realtà bisogna essere franchi, e quindi lo si fa, almeno nel mio caso lo faccio con estrema convinzione e con estremo piacere. Nei momenti di libertà si cerca di stare con i propri bambini, con la propria famiglia, di fare delle cose insieme, anche perché poi quando diventano più grandi e crescono saranno loro a prendere strade diverse, quindi certo, inevitabilmente gli hobby sono poi costretti. Le dirò che ultimamente, avendo dei bambini piccoli ma non piccolissimi, riesco già a fare delle cose anche con loro, quindi non so, adesso andiamo a sciare per esempio, facciamo partite di pallone, giochiamo a tennis. Sono dei momenti belli, ecco, francamente bellissimi. Insomma, sono nuove generazioni, come lei dice, quindi anche loro respirano anche un po' l'azienda, un po' tutt'uno, insomma, la persona, la vita familiare, la vita personale, la vita lavorativa, ecco, un po' tutto tondo. Sì, devo dire che nel momento in cui all'interno, diciamo, del nucleo familiare non c'è mai nessuno che in qualche modo rinfacci le scelte o le necessità, tutto poi trova la giusta armonia, il giusto grado di integrazione, e anche il fatto che magari non si sia troppo presenti in famiglia o ci si deve assentare per lavoro viene vissuto positivamente, non come una mancanza. E questo secondo me è un fatto molto molto importante, che è possibile quando la coppia è molto matura e quindi quando si capiscono perfettamente quelle che sono le necessità, anche un po' gli obblighi, i doveri, e in qualche maniera, insomma, si fa forza per superarli. E questa cos'è? Una macchina espresso, l'ha comprata il signor Nino. E come si usa? Boh. E adesso chi glielo fa il caffè? Leggiamo le istruzioni. Geniale. Dice che ci vuole caffè speciale. Beh, più speciale della Lavazza, eh. Alt! Fermi dove siete. Espresso famiglia Lavazza. Espressamente macinato per l'espresso. Geniale. È come al bar. Glielo di sempre tutto. Ecco fatto. Buono, il caffè è espresso e il piacere è Lavazza. Mm-hmm. Quali si sente di dire che sono le particolarità più importanti della vostra azienda? Ma guardi, da una parte direi che noi siamo stati sempre molto fedeli alla nostra missione, consapevoli anche di quelli che sono i nostri punti di forza, i nostri limiti. Io credo che in questo momento, al di là appunto di attività come la ricerca, l'innovazione, che sono comunque delle sfide continue, importantissime, perché le aziende, se non riescono in effetti a innovare e a svilupparsi, a essere contemporanee, al passo coi tempi, rischiano poi davvero l'estinzione. Io credo che oggi come oggi, ma direi il quadro economico generale lo dimostra secondo me in modo molto netto, la cosa fondamentale è avere sempre l'esatta consapevolezza di quali sono i propri limiti allo sviluppo. Perché quando poi si tira troppo la corda si rischia veramente di mettere in gravissima difficoltà la struttura aziendale, malgrado la ricerca, malgrado l'innovazione. Noi da questo punto di vista siamo sempre stati, devo dire, molto prudenti, molti ci dicono troppo prudenti, però abbiamo sempre cercato di fare un passo dopo l'altro con estrema cautela. E soprattutto abbiamo cercato di crescere nell'idea di costruire un'azienda che sia veramente molto solida, quindi in grado poi, tutto sommato, anche in periodi non troppo felici come questi, di poter attraversare mari tempestosi con una certa serenità. E ci sembra di essere, tutto sommato, abbastanza riusciti. Quindi certamente, secondo me, la cosa più importante è riuscire all'interno di un'azienda a creare le premesse per uno sviluppo sostenibile dell'azienda stessa, in cui ovviamente l'innovazione e la ricerca sono parti fondamentali e importanti della nostra attività, ma non sono il fine principale, sono degli strumenti. Sviluppo sostenibile che cosa significa per un'azienda? Per un'azienda sviluppo sostenibile significa fare un bilancio molto preciso tra quello che in effetti si vuole raggiungere è quello che si può raggiungere. Quello che si può raggiungere si deve raggiungere non al prezzo di mettere in repentaglio la sopravvivenza stessa dell'azienda o in qualche maniera scomporne in modo tale gli equilibri da rendere poi impossibile governarla. È quello che è successo per esempio nella finanza in questi anni, in cui si sono posti degli obiettivi molto ambiziosi, ma tutto sommato non si è capito fino in fondo la pericolosità della strada che si stava intraprendendo. È un discorso valido per tutte le aziende, non soltanto per le aziende della finanza, ma anche per l'industria, le aziende della ricerca, dei servizi. È fondamentale poter in qualche maniera costruire fondamenta solide e soprattutto strutture aziendali in grado di resistere anche a forti sollecitazioni. È chiaro che il prezzo forse da pagare per un discorso di questo genere è il fatto che la crescita non può avvenire in tempi rapidissimi, quindi è indispensabile poter in qualche maniera puntare veramente al medio-lungo termine, ma farlo poi con l'obiettivo, la prospettiva che dopo il medio-lungo termine c'è un altro medio-lungo termine, quindi poi la storia non finisce lì. Quali sono le innovazioni del passato che hanno determinato una vera e propria svolta anche d'immagine per la vostra azienda? Sicuramente forse la cosa più importante che ricordiamo sempre è stato forse un po' l'inizio della nostra prima grande campagna pubblicitaria, eravamo negli anni 60 quando è stato lanciato il prodotto Paulista, Caffè Paulista, che è stato un po' il primo prodotto attraverso il quale la Lavazza è diventata famosa in tutta Italia, perché per la prima volta il caffè era stato confezionato in una lattina sotto vuoto spinto, quindi poteva in qualche maniera essere venduta anche a grande distanza rispetto al luogo in cui veniva confezionato e tostato, si poteva proteggere proprio grazie a questa innovazione. E la campagna che ha accompagnato il lancio di questo prodotto è stata molto importante perché ha visto sostanzialmente nascere la coppia di Paulista e Carmensita, che tutto sommato ancora oggi rimane nella memoria di tanti italiani, ha fatto anche un po' la storia del carosello. Ecco, diciamo che in quegli anni si sono proprio un po' condensate tante cose importanti, la voglia da una parte dell'azienda di diventare nazionale, i tempi, quindi di portare in giro per l'Italia un prodotto con il proprio marchio, direi la voglia di accompagnarla con una storia pubblicitaria simpatica e divertente che potesse offrire un intrattenimento per tutti, così come era inteso anche ai tempi il carosello. Una grande anche campagna di merchandising, quindi tanti oggetti che popolavano il nostro paese, ricordo cartoline dove si vedevano ancora i nostri ombrelloni Paulista che ad esempio ornavano i dehors dei bar lungo le nostre coste o all'interno delle piazze delle nostre città. Quindi sicuramente un momento di grande creatività che ha firmato una pagina molto importante della storia della nostra azienda, che in quegli anni diventava veramente marca, entrava piano piano un po' nel cuore degli italiani. Carmensita, mi hai tradito? Cazzo, per non tradire te, non ho preso più un caffè. Olè, olè, olè, sono sempre il suo caffè, Caffè Paulista. Sono tante, tante le tentazioni, ma chi arriva a Paulista non torna più indietro. Bisogna fermarsi il tempo per una tazzina di caffè e darsi una nuova spinta e ricominciare, insomma, continuare più che altro. Bisogna ricaricarsi con una buona tazzina di caffè, soprattutto fare del pieno di ottimismo e non perdere la speranza e la voglia di lavorare e soprattutto di costruire. Se si ha la voglia di costruire, i risultati arrivano e soprattutto avere anche quel minimo di tempo per lasciare che un piccolo seme prima diventi una pianticella e poi col tempo diventi una grande pianta, e la grande pianta in effetti poi può resistere anche a tempi molto avversi. E finisce qui la storia di Voci d'Impresa di oggi, la storia di Giuseppe Lavazza, vicepresidente di Luigi Lavazza S.p.A., l'azienda italiana produttrice di caffè tostato. Noi ci ritroviamo presto con un'altra storia. Un saluto cordiale da Anna Marino.